Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi dico da subito, tenetevi forti, perché questa è una puntata speciale, molto speciale, di Non ci sono più le mezze stagioni, per capire se siamo un po' agli sgoccioli, insomma, se stiamo tirando gli ultimi. Qualcuno, insomma, farà scongiuri, si toccherà in certi punti, però così, giusto per cominciare a fare qualche riflessione, visto che l'anno corre verso una certa data che molti danno come limite, vedremo in che senso come limite. Ma per spiegarvi meglio, prima di presentarvi tra pochi istanti tutte le persone, i personaggi, gli ospiti che discuteranno e porteranno i loro contributi, le loro suggestioni a questa chiacchierata che faremo in questa ora, vi farei capire, giusto con un piccolo cenno musicale. Destra, sinistra, su, giù, centro, fine del mondo con un giramento, che chi è fuori e fuori, chi è dentro e dentro e fuori TV, non sei niente. Ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona. Girone, altro regalo, niente caramelle per i lecca culo, che il girone è giusto, ok? Anche ora è la fine del mondo, anche ora è la fine. Ecco, la domanda è questa, insomma, mettete gli orologi un'ora, insomma, precisa, puntuale, all'ora X, diciamo, perché potremmo chiederci oggi effettivamente a che ora è la fine del mondo. Se ne parla probabilmente dall'inizio del genere umano, no? Quest'ansia di capire ma quando tutto questo finirà. Forse perché appunto può darsi che nella fine collettiva ci si conforti un po' di più, perché ognuno sa che per se stesso almeno la fine prima o poi ci sarà, anche abbastanza breve è la vita umana. Ecco, la profezia dei Maya, ne avete sentito parlare? Direi di sì, perché la Maya mania, quella che è stata definita negli ultimi tempi, si diffonde a macchia d'olio dai film, al web, ai libri, insomma se ne parla moltissimo. Secondo i Maya, questa antichissima civiltà, almeno secondo quello che si racconta e secondo i loro calendari, ci sarebbe la fine del mondo il 21 dicembre 2012, quindi non è che ci sia molto tempo per pensarci, cominciamo un po' a chiarirci le idee e a parlarne. Poi naturalmente ci sono moltissimi più probabilmente che sono molto scettici su questa teoria. Quante volte si è parlato di millenarismo, appunto di un giudizio universale che poteva arrivare, ma quante date anche sono state date, no? Tra Nostradamus e tante altre profezie nella storia umana, quindi evidentemente c'è bisogno di porre una data in cui forse ci sarà un grande cambiamento, una catastrofe. Cercheremo di capirlo adesso con gli ospiti, signore e signori, che vi vado a presentare. Roberto Giacobbo, caro Roberto, noto conduttore TV, autore, conduttore di un sacco di programmi su varie reti, dal 2003, come sapete tutti, conduttore di Voyager, programma di grande successo su Rai 2, talmente di successo che se non ti offendi, Roberto, credo che Crozza ti abbia reso immortale, no? Anche con il tuo programma. Ma io lo ringrazio molto e devo dire la verità che talvolta ha creato dei divertentissimi contrattempi. Un giorno un professore mi ha detto: dottore, io la seguo molto, ma quella battuta sugli ittiti era veramente eccessiva. Io ho cercato e alla fine la battuta sugli ittiti l'aveva fatta Crozza in maniera molto divertente, aveva detto: ma è vero che gli ittiti conoscono solo la I e la T? Ecco, quindi è finita lì con una risata. Roberto Giacobbo è spiritoso, ma vorrei essere io imitata da Maurizio Crozza, vuol dire che sono famosissima e che quindi tutti appena sentono Voyager che si è trasformato in Katzenger che si simpatico comunque. Roberto però è un uomo di grande cultura, ha scritto anche tanti saggi, tanti libri, l'ultimo Da dove veniamo, la storia che ci manca, quindi qui le cose si complicano non solo verso dove andiamo, se andiamo verso una fine oppure no, ma anche da dove veniamo, poi ne parleremo, pubblicato da Mondadori con un sacco di dati, di suggestioni, di studi di 20 anni, insomma un libro molto ricco. Poi c'è Stefano Bagnasco. Stefano, Buongiorno a tutti. Stefano Bagnasco del CICAP è fisico, lavora all'Istituto Nazionale di Fisica, ci spieghi brevemente, anche se insomma è famoso il CICAP, è stato fondato anche da Angela, in che cosa consiste, no? È un centro studi confutativo, si potrebbe dire. Ma più che confutativo, insomma ci capita di confutare, ma lo scopo non è quello di confutare. Lo scopo è quello di andare a prendere tutte queste cose un po' misteriose, un po' affascinanti, un po' spesso svuotate di fondamento, ma non necessariamente, non è detto a priori, e andare a controllare con gli occhi e gli strumenti della scienza cosa c'è di vero, cosa c'è di fondato. Questo molto spesso, disgraziatamente, si trasforma in una confutazione, ma non è la nostra volontà questa. Comunque, appunto, tra i fondatori è Piero Angela, poi abbiamo Paolo Crepé. Paolo Crepé, che stava viaggiando in treno e mi pare che già sia stata la prima galleria, va bene, poi lo recuperiamo. Gianfranco De Turris. Buonasera. Ciao a te Gianfranco, che è giornalista, saggista, scrittore italiano, tra l'altro è ritenuto, dimmi tu, uno dei più importanti studiosi italiani di fantascienza, no Gianfranco? Me ne occupo dal 1961. Pensa tu, una vita è passata praticamente, un sacco di anni. E poi c'è Elisabetta Fernandez. Buongiorno. Benvenuta Elisabetta, sociologa, presidente dell'Istituto di Studi sulle Relazioni Sociali di Roma. E poi c'è Gianna Schelotto, psicoterapeuta. Ciao Gianna. Ciao a tutti. E Andrea Furgione, che è direttore della rivista Phoenix. Ciao Andrea. Che buonasera. Si occupa... Adriano, Non ho capito. Adriano Furgione. Adriano, perdonami, Adriano Furgione, sì. cioè quella A che mi girava in testa. Adriano Furgione, che è direttore di una rivista Phoenix che si occupa di misteri, possiamo dire, in senso generale, più legati al sacro e al passato, sì, alla storia. Al passato e a quella che è la conoscenza occulta. Allora, cominciamo, io direi, da Roberto Giacobbo, visto che appunto su questo tema ha scritto diversi libri e ha talmente tante cose da raccontare. Cercheremo di essere tutti sintetici, così c'è più spazio per tutti, ma insomma, tu sei un grandissimo appassionato di misteri, di storia, delle nostre origini. A proposito della profezia dei Maya, per esempio, Roberto, se tu dovessi dire in sintesi a chi ci sta ascoltando in cosa consiste... Ma in effetti non è realmente proprio una profezia come ne abbiamo lette tante, viste tante e passate anche tante, diciamoci la verità. È una considerazione che loro hanno fatto in tempi lontanissimi, legandola al loro calendario, e hanno valutato in rapporto a alcune conoscenze che loro avevano legate alle stelle e non solo, che il loro calendario dovesse finire in una data. E la data dovrebbe essere proprio quella del 21 dicembre 2012. Da lì poi ci sono nate mille lucubrazioni, mille fantasie, mille cose. La cosa che si può notare, ma si nota, come dire, con il piacere, il piglio del cronista legato alla storia e alle antichità, è che questa data o questo periodo non è stato identificato sul calendario solo dai Maya, ma anche da altre civiltà lontanissime dai Maya nel tempo e nello spazio, il punto che si è cominciato a parlare di questo periodo legato ad un cambio del cielo che vediamo noi dalla Terra, addirittura dagli antichi Egizi, quindi quasi 3000 anni prima di Cristo, e l'ultimo che ne ha parlato, ne avrebbe parlato perché le sue quartine sono molto enigmatiche, che sarebbe addirittura Nostradamus, quindi intorno al 1500 d.C. Si parla quindi di 4500 anni lontanissimi, dove si è passati attraverso i nativi americani, cambogiani e altre popolazioni che hanno identificato un cambiamento in questo periodo. In questo periodo, di fatto, poi non voglio, come dire, bruciare tutta la trasmissione no. all'inizio, ma avremo altre cose da dirci, finisce il calendario Maya. Taluni hanno, e li metto nel catalogo dei catastrofisti, detto che finisce il calendario, quindi finisce il mondo. Io sono testimone, avendo 50 anni, che il nostro calendario è già finito 50 anni alla mia presenza, e c'è sempre stato un primo gennaio alla fine del 31 dicembre. E questo ci dà speranza, anche se a volte quando finisce il calendario può darsi che sia mancanza di carta e non di altro. No, in questo caso il loro calendario, diversamente dal nostro, finisce ogni oltre 5000 anni, quindi è un fatto piuttosto raro, mentre il nostro ogni anno, come sappiamo, si rinnova. Anche se devo dire che di recente leggevo che un gruppo di archeologi statunitensi dell'Università del Texas hanno portato alla luce in Guatemala i più antichi, così li hanno definiti loro, calendari astronomici dei Maya mai scoperti fino ad oggi. Ogni volta c'è un record, no? Nessuno dei calendari, hanno detto questi archeologi, fa riferimento alla presunta fine prevista per il 21-12-2012. Spiega questo ricercatore William Saturno, il cui cognome, insomma, è tutto un programma. Dice: gli antichi Maya predissero che il mondo sarebbe continuato ad andare avanti, che in 7000 anni le cose sarebbero tornate al punto di partenza, quindi come una specie, insomma, di trenino, quello dei bambini che ritorna alla stazione e riparte continuamente, anche quello degli adulti in fondo. Paolo Crepé, per spostare un momento, diciamo, il piano di discussione su una questione più umana, psicologica, secondo te, poi vivendo anche i tempi in cui viviamo, di crisi, di buio, di paura di fallimento, di default, di spread, di tutte queste cose abbastanza angoscianti, può darsi che già la fine del mondo uno la viva per questa atmosfera che ci attanaglia, Paolo? Sì, dipende, perché in realtà noi usiamo questa frase anche per dire una cosa straordinaria, no? Ci sono stati dei ragazzi che hanno detto alla propria ragazza: sei la fine del mondo. Quindi la fine del mondo non è una cosa così negativa, no? Vista da questo punto di vista. Quindi a me è capitato un paio di volte di dirlo, quindi credo che sia ancora viva la signorina, quindi non possiamo pensare che sia sempre tutto negativo. Forse abbiamo semplicemente bisogno di grandi emozioni. Come sappiamo, lo spread ce n'è da poche, quindi forse cerchiamo da qualche altra parte. E naturalmente queste cose a volte lette in maniera molto catastrofista, altre così un po' in maniera semplicemente leggendaria, però tutto questo fa vendere i giornali, fa fare trasmissioni televisive, fa tante cose, insomma, da che mondo è mondo. Con Paolo abbiamo delle difficoltà, non so se è finito il suo mondo, è finito il treno, è arrivato nel tunnel, non lo so, ma lo ringraziamo e lo salutiamo a questo punto. Paolo Crepeo aveva avvisato, insomma, che c'erano un po' di gallerie, ma naturalmente riuscirà a uscire da qualche parte, ci sarà una fine del tunnel. Stefano Bagnasco, invece, mentre ci ricordi per cosa sta l'acronimo CICAP, no? Sì, cerchiamo di farlo dimenticare, come cosa vuol dire, perché è una roba estremamente complicata, sì, adesso lo dico, ma chiamateci CICAP e basta. Vuol dire Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, dove disgraziatamente spesso il controllo viene scambiato con contro. Noi non siamo contro, noi vogliamo semplicemente fare in modo che queste cose vengano studiate con lo stesso rigore scientifico con cui si studiano le altre. E anche il termine paranormale ormai ci sta un po' stretto, perché ci occupiamo di tali e tante cose che dovrebbero essere studiate con rigore scientifico, ma non lo sono, che appunto questa sigla, va bene la sigla, ma insomma il suo significato ha perso un po' di attualità, ecco. Però insomma il lavoro che svolgete già lo hai spiegato. A proposito di questa profezia dei Maya, oppure delle varie teorie che si intrecciano nel corso della storia, come ci diceva anche Roberto Giacobbo, da Nostradamus alla teoria delle piramidi d'Egitto come strategia per evitare il congiungimento dei poli previsto per la fatidica data, e quello dei teschi di cristallo, insomma ci sono 3.000 cose. Voi del CICAP che pensate a questo proposito? Il punto è che questa cosa è talmente multiforme, questa storia della profezia Maya, che ci vorrebbe, ma altro che una trasmissione, ci vorrebbe un'intera serie di puntate per andare a esaminare singolarmente ogni affermazione. Questo è il nostro problema, che molto spesso è facile fare delle affermazioni, ma poi è difficile andare a verificare cosa hanno di vero. Ma si può fare tanti esempi, per esempio, ma anche solo per dire il fatto che ci possa essere, come cosa viene detta spesso, un picco dell'attività solare proprio in corrispondenza del dicembre del 2012. E il Sole ha un ciclo di attività di 11 anni, che però non è esatto, non è precisissimo. Gli astrofisici si aspettano che il massimo dell'attività solare capiti in realtà non nel 2012, ma già un po' più avanti nel 2013, e in realtà non sia particolarmente più intenso degli ultimi 3 o 4 cicli, anzi potrebbe essere plausibilmente un ciclo piuttosto debole. Gli astrofisici non si aspettano niente di drammatico dal Sole. Beh, a proposito di questo ciclo, questo è un punto, ce ne sono talmente tanti. No, ma poi ne facciamo altri di esempi, Stefano Bagnasco, però dicevo, il ciclo qui si chiude, diciamo, di questa prima parte di Non ci sono più le mezze stagioni. Adesso, come mi avvisa Valeria Bernardi della parte tecnica, abbiamo la viabilità, dobbiamo aggiornare chi viaggia e chi riflette, diciamo, viaggiando su tutte queste teorie, e ci ritroviamo tra pochissimo. Non ci sono più le mezze stagioni. E andresti fino all'inferno cercando soltanto lei, fino alla fine del mondo, gridando perché la vuoi. Quando avverrà la fine del mondo? Ce lo chiediamo come esseri umani da sempre, come ci chiediamo anche del nostro destino singolo, ci poniamo 2.000 domande ovviamente e anche di più, no? Così precari, così effimeri, così fragili come siamo. Ma a proposito di questa profezia, leggenda, come volete chiamarla, dei Maya, e comunque della fine del mondo prima o poi, Come stanno le cose? Sono soltanto superstizioni, sono calcoli sbagliati? Vi dicevo prima di questi archeologi americani che hanno trovato quelli che ritengono i calendari più antichi dei Maya, dove secondo loro non c'era alcun riferimento a questa fine. Mi piacerebbe poi capire anche come ci possa essere stato, per esempio, il malinteso. Vabbè, che persino la storia, quella oggettiva, quella quasi contemporanea, moderna, che abbiamo vissuto, anche le grandi tragedie, eccetera, spesso vengono confutate, cioè il revisionismo. Comunque è difficile mettere insieme le verità, anche se possiamo dire che su questa cosa potremmo essere abbastanza diffidenti. Gianfranco De Turris, per esempio, tu che ti occupi di fantascienza e hai anche curato un'antologia, no, di 24 racconti, tra cui ha scritto anche Giulio Giorello, filosofo, e molti altri, che hanno immaginato come potrebbe avvenire, anche come potrebbe avvenire di questi racconti, quale citeresti, come potrebbe avvenire questa catastrofe? Ti dico che, occupandomi da tanti anni di fantascienza, mi è venuto quasi inevitabile pensare di chiedere a una serie di scrittori italiani, tra cui appunto alcuni docenti universitari come Giorello, Formenti, Longo, il professor Cardini, che è un medievista, Bizzarri, che è un biologo, e molti altri specialisti, immaginarsi qualcosa riguardante questa fatidica data. E tutti loro l'hanno immaginato, non perché credono a quello che hanno scritto, perché hanno preso l'idea come uno spunto per anche ironico a volte, no? Per un buon racconto che può essere fantastico, fantascientifico, horror, surreale, anche realistico. E si sono divertiti a fare questo. Quel che mi ha colpito è che questo movimento mass mediatico intorno al 21 dicembre è molto simile, e non credo di essere l'unico a averci pensato, a quello che è successo mille anni fa, cioè una sindrome millenaristica. L'umanità intorno all'anno 1999 eccetera, pensava che sarebbe finito il mondo. Adesso intorno all'anno 2000, siamo al 2012, però siamo sempre intorno all'anno 2000 in grande prospettiva, è la stessa cosa. E io nella mia introduzione ho notato questi particolari, accumulando delle informazioni che sono anche quelle che tu hai citato in precedenza, cioè l'angoscia per la situazione generale, le catastrofi naturali e cose di questo genere, che tutto sommato alla fine sono state prese all'interno di un circuito, soprattutto internet, soprattutto il web, la rete, che lo ha gonfiato fino a farlo diventare una bufala mediatica, perché questa, come è stato notato da Giacobbo e anche dalla rappresentante del CICAP, non è una profezia, è un calendario tradizionale. Tutti i popoli tradizionali, compresi quelli, anche quelli occidentali, hanno visto il tempo in maniera ciclica, un inizio, una fine e un rinnovamento, quindi la famosa età Esiodo, no? Le quattro età, e idem nella civiltà romana, è sempre stato così, quindi niente di particolare per loro, non è che ci deve essere una catastrofe naturale, ci deve essere un tempo che finisce, un tempo che comincia, come fosse il 31 dicembre e il 1 gennaio. Ci sarà una modifica? Non si sa, però gli antichi la vedevano in questa maniera. Il calendario Maya, preso in considerazione, io mi ho fatto riferimento a quello che ha scritto il professor Antonio Aimi, che è un maggior cultore delle civiltà Maya e Azteche in Italia, è semplicemente questo: la fine di un grande ciclo e l'inizio di una cosa nuova. Cosa questa può essere, non si sa. Il problema, come ho detto prima, è che nell'ambito di questo chiacchiericcio, soprattutto a livello della rete, è diventata una cosa di tipo catastrofico, poi naturalmente strumentalizzata a fini molteplici, dagli ecologisti fino alla New Age e compagnia bella. Per gli ecologisti può esserci anche qualche fondamento, cioè non qualcosa che succede al di là della nostra volontà, ma perché ce lo creiamo noi, ci distruggeremo con le nostre mani, effettivamente. Tutto il famoso tsunami di anni fa, gli inverni freddissimi, le estati caldissime, tutte queste cose qui sono state portate poi come prove che qualche cosa dovrebbe succedere. Gianfranco De Turris, a questo proposito io ricordo che c'è anche un libro di Gianni Zaffagnini pubblicato da Edizioni Sonda che si chiama I calendari Maya, oltre le paure della fine ci sono tutti i calendari, la simbologia, l'astronomia dei Maya, tutte delle cose piuttosto complesse anche in questo libro. Ma volevo chiedere a Elisabetta Fernandez, come sociologa, Elisabetta, può essere che questa lettura invece del rinnovamento, un rinnovamento spirituale, quindi non la fine del mondo, l'apocalisse, ma come fosse uno spartiacque quella data, non so quanto vero, forse quanto auspicata di cambiamento. Che dici? Basti pensare che apocalisse vuol dire proprio svelamento, no? Quindi completamento di un ciclo, fine di un ciclo, inizio di un altro. Io stavo riflettendo sul fatto che in tutte le regioni planetarie è presente questo concetto che abbiamo fino adesso esposto di cicli che iniziano e si concludono, quindi ogni volta è una riapertura a nuove esperienze, a nuovo mondo, e comunque tutte quelle che io definirei paranoie apocalittiche non sono sicuramente una novità. Addirittura 6 secoli avanti Cristo si pensò a una catastrofe a Roma, quindi è già un concetto di devastazione, di paura della fine del mondo, di distruzione di una civiltà. Poi c'è una lunga carrellata che trova uno dei momenti più forti nel secondo secolo d.C., quando sia sette eretiche sia profeti dell'Antico Testamento parlano di apocalisse, di fine del mondo, e qui si apre un lungo elenco con il quale non voglio assolutamente tediare nessuno. Però l'unica cosa mi sembra che accomuni un pochino il tutto, questo concetto di fine del mondo, abbia appunto un elemento comune, che è quello proprio che si comincia a pensare ad una fine del mondo quando c'è un po' una degenerazione dei costumi, c'è un discorso di insoddisfazione generalizzata, di adozione di comportamenti poco idonei ad un concetto di società funzionante o di sistema comunque funzionante, perché di società in alcuni periodi non si poteva ancora parlare. Quindi fondamentalmente dovremmo avere, in ragione di questo pensiero di fine del mondo, avere lo spunto, il pretesto per poter pensare un po' ai nostri comportamenti, a quello che ormai la società è diventata, al nostro modo di interagire, quindi alle relazioni con gli altri e con le cose. E qui aprirei una piccola parentesi sul discorso ecologista del quale tu hai dato uno spunto. Io amo molto l'ambiente e lo rispetto, e penso proprio che questa paura della fine del mondo potrebbe farci riflettere sull'idea di uno sviluppo sostenibile, cioè anche di un sistema economico che sia costretto a fare i conti con un qualcosa di ben più importante, la sopravvivenza della specie, che il cui presupposto essenziale è la sopravvivenza dell'ambiente e dell'ecosistema. Quindi ecco, vedrei questa paura per la fine del mondo come un momento di riflessione, perché la paura, che è una delle emozioni di base insieme alla rabbia, a volte può essere utile, costruttiva, esatto, alla gioia, alla tristezza, alla sorpresa, al disgusto, è quella che più ci rende coscienti, secondo me, del nostro essere e del nostro modo di esistere e di rapportarci. Quindi un po' di paura non guasta. In questo caso, anzi, credo che possa essere produttiva. Poi ne parleremo tra poco anche con Gianna Schelotto a proposito di paura. Però Adriano Forgione, invece, visto che appunto sei direttore di una rivista che si occupa di misteri, dicevamo, Phoenix, sì, che lettura voi date? Siete un po' più possibilisti su quello che potrebbe succedere? Ma io, considerando che ci occupiamo di temi relativi al sacro, e il mistero del sacro, innanzitutto non sarei così critico con le profezie, nel senso che la profezia fa parte della nostra tradizione. Il nostro libro sacro, la Bibbia per esempio, è un libro profetico, sia nel Nuovo Testamento che nel Vecchio Testamento. C'è la promessa di un ritorno, c'è la promessa di una trasformazione, di una purificazione. Quindi bisogna comunque considerare che la profezia in se stessa... Adriano, fermiamo un attimo Adriano, perché credo che stia parlando, non so se da qualche altro pianeta probabilmente, ma lo riprendiamo magari con il telefono, sentiamo meglio. Gianna Schelotto, mentre lo recuperiamo con i piedi per terra, Adriano Forgione, a proposito delle paranoie apocalittiche di cui parlava Elisabetta Fernandez, no? C'è, diciamo che la paura, oltre a essere costruttiva, come diceva, no? Il fatto di avere paura, per esempio, dei pericoli, dei rischi, ha fatto sì che il genere umano si evolvesse, continuasse nel tempo, ma può darsi anche che la paura sia un po' esorcismo, abbiamo anche bisogno di pensare che la fine arriverà per poi dire non c'è stato nulla di che? Gianna? Beh, intanto mi sembra che ci possa essere nella paura, diciamo, mediatica che si è diffusa, per chi la prova, che ci sia una sorta di spostamento, perché in realtà noi stiamo vivendo davvero la fine del mondo. È finito il mondo delle sicurezze economiche, è finito il mondo della leggerezza, è finita, cioè, voglio dire, la crisi, i disastri economici che stiamo vivendo. Sono tutte cose che ci dicono che davvero dobbiamo voltare pagina, che davvero un mondo è finito. Però al di là di questo, quindi, diciamo, l'adesione collettiva a questa ipotesi forse nasce proprio dal vissuto quotidiano di queste incertezze. E poi l'altro aspetto è che se non riusciamo a circoscrivere un evento dall'illimitatezza, lo rendiamo limitato, gli diamo una data, parentesi, non ci fanno fare nemmeno Natale, perché 21 dicembre non ci fanno arrivare nemmeno a Natale. Ma se noi lo circoscriviamo, per certi versi ci sembra più governabile l'ansia che è legata a questo. E poi c'è un'ultima cosa, cioè la paura vera per cui queste cose ci possono attanagliare, ci possono distrarre, è la paura della fine del mondo individuale. C'è una bellissima, un bellissimo verso di Apollinaire che dice: aspettavo la fine del mondo, ma è la mia che arriva, fischiando come l'uragano. E quindi è probabile che quest'ansia da fine del mondo abbia a che fare proprio con il senso della limitatezza e con la grave ferita narcisistica che l'uomo deve, con la quale l'uomo si deve confrontare, cioè col fatto che il mondo per lui prima o poi finisce. Mentre per gli altri no, probabilmente. Ma qui ci fermiamo su questa riflessione. Franco Piantanida mi avverte che c'è ancora una pausa, ma prima vorrei lanciarvi anche questo messaggio anche agli ospiti e ai facebookiani, alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Che cosa, nel caso davvero dovesse finire con la fine dell'anno, anzi un po' prima, neanche il Natale ci fanno fare, diceva Gianna Scherotto, il 21 dicembre 2012, il mondo, cosa salvereste della produzione della storia umana? Non ci sono più le mezze stagioni. Che ore, scusa, ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo. Fine del mondo, immondo visione, diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale, i maroni no, Ferri batte il record di autogol, le liste del giudizio universale. La fine del mondo è vicina, così secondo il calendario dei Maya, che qualcuno chiama la profezia dei Maya. Insomma, comunque abbiamo detto che è un tantan da diverso tempo sul web in particolare, poi ne parlano film, ne parlano giornali, libri, e fra gli appassionati appunto di questo genere di cose non si parla d'altro appunto che del calendario dei Maya, secondo il quale il 21 dicembre 2012 ci sarà la fine del mondo, anche se abbiamo avuto diverse letture dei vari ospiti, sempre naturalmente Roberta Giordano con voi, ma ci sono in collegamento Roberto Giacobbo, Stefano Bagnasco, Paolo Crepè, ci ha lasciati poco fa in senso drammatico, ma perché il suo treno evidentemente si è infilato in qualche tunnel, Gianfranco De Turris, Elisabetta Fernandez, Gianna Schelotto, Adriano Forgione che speriamo di sentire adesso con voce più squillante. Adriano, sono qui. Il tuo telefono era già verso il baratro, verso la fine del mondo probabilmente. Vabbè, saranno anche questi i problemi dovuti al 2012. I primi segnali, insomma, i primi sintomi. Adriano, quindi, è come rivista Fenix che si occupa di misteri, come lo tratta questo possibile mistero, questa fine, guarda, che si avvicina? In qualche modo siamo rispettosi di quelle che sono le tradizioni profetiche, perché fanno parte comunque di un corpus sacrale che è patrimonio di tutta l'umanità. I libri sacri, i libri di conoscenza sono comunque degli strumenti non solo di potere per il potere temporale, ma sono anche uno strumento di conoscenza per poter approfondire, andando oltre la lettera, quelli che sono i messaggi che vengono dal passato. Questo non vuol dire approfittare e in qualche modo perdere la testa rispetto a quelle che sono delle profezie millenariste, però è anche vero che certi eventi comunque sono presenti e tangibili. Noi sul 2012 siamo sicuramente possibilisti, d'altronde anche se Bagnasco magari potrebbe dire che non è vero, ma c'è un aumento percentuale notevole dell'attività sismica, attività tellurica in tutto il mondo, i terremoti sono sempre più forti, vi è anche un leggero spostamento del campo magnetico, questo è stato già valutato, il Sole è sicuramente in grandissima attività e non è vero che gli astronomi e astrofisici non si aspettano nulla, perché la NASA ha già diramato degli allarmi, ma già dall'anno scorso, anche se poi fa un po' come il ragazzino che nasconde la mano, prima fa circolare allarmi, poi magari dice no, ma non preoccupati, non sarà nulla di grave. E il problema è che la nostra civiltà è diventata profondamente sensibile e debole rispetto a quello che sono eventi catastrofici naturali. Noi siamo dipendenti dalle linee elettriche, dalle forniture di energia globalizzate, quindi un evento solare come quello che è avvenuto per esempio a metà dell'Ottocento potrebbe chiaramente causare un tilt completo della nostra civiltà, quindi non sarei così quindi il tilt potrebbe essere il buio, fermarsi, si fermano i treni. treni, si ferma la produzione industriale, questo potrebbe essere il tilt. Si fermerebbe la produzione industriale, quindi noi potremmo tornare indietro di secoli, ma questo i sociologi lo sanno molto bene. Il problema è che noi siamo dipendenti dal sole, questo non lo possiamo controllare, perché chiaramente l'attività solare è fuori dal nostro controllo. Se ci fosse un'esplosione solare di un'entità più alta rispetto a quelle previste, sappiamo che la nostra scienza conosce solo la penultima verità, non l'ultima, è chiaro che noi siamo completamente disarmati rispetto a un evento del genere. Quindi sicuramente c'è una trasformazione, i Maya avevano previsto un cambio di ciclo, questo non vuol dire un'apocalisse totale, ma una trasformazione energetica che comunque è visibile oggi, è prevista un po' in tutti i campi. Se pensate a quello che è fondamentalmente non solo la crisi economica, la crisi sociale, crisi geologica, c'è una crisi del mondo naturale, c'è una crisi totale. Quindi significa che gli antichi conoscevano il linguaggio della natura, sapevano interpretarli e ne davano anche dei calcoli precisi. Anche se questo Adriano potrebbe anche corrispondere, questo fatto dei cicli tutta la storia umana che ha avuto dei cicli, no? Abbiamo parlato anche della forte depressione economica del 29, nessuno, nel senso, non c'è stata una catastrofe, certo, apocalissi, poi sicuramente si è ripresa. Roberta, ma questo non vuol dire fine del mondo, significa solo rinascita o rigenerazione, è stato molto ben detto dagli ospiti precedenti. D'altronde i Maya, quando parlavano di 2012, e la data è corretta perché il calcolo temporale è corretto, parlavano di rigenerazione, la manifestazione delle divinità della creazione, quindi si parla di rinascita, non si parla di fine. È ovvio che quando c'è qualcosa che nasce c'è sempre un vecchio che deve morire, comunque è una crisi. Pensate a una donna che deve partorire, ovviamente fa nascere una nuova vita, ma essa stessa in qualche modo entra in un momento di crisi. Questo è quello che sta accadendo un po' al nostro pianeta. Stiamo vivendo una crisi globalizzata, forse sottolineo profetizzata, ma che comunque sicuramente anticipa qualcosa di nuovo e di positivo. E la pensi così, Roberto Giacobbo? Devo dirti che mi piace molto il paragone con la donna che sta per partorire, con le doglie, perché in effetti in questo periodo di doglie il mondo ne sta sentendo parecchie, non so se mi spiego. E se tutto questo si risolvesse con un bel parto di un nuovo periodo più positivo, eccetera, sarebbe piacevole. Anche se, Roberto, scusa se ti interrompo, ma c'è stato un periodo della storia umana in cui non ci sono state doglie di questo tipo diverse, insomma, comunque dolori, sofferenze, guerre? Noi ormai ci siamo abituati molto bene, perché ormai noi siamo abituati a aprire un rubinetto e esce l'acqua, a premere un bottone e si accende la luce, a premere un altro bottone e trovare la casa calda. Diciamo che parlare anche solo del Medioevo, di poche centinaia di anni fa, voleva dire vivere praticamente quello che oggi chiameremo un inferno. Quindi diciamo che le nostre agiatezze ci fanno sembrare enorme qualunque piccola difficoltà. È naturale che ormai, come si stava dicendo, siamo assolutamente dipendenti dall'energia elettrica. Provate a pensare se per un motivo qualunque, naturale o umano, si dovesse interrompere il flusso dell'energia elettrica, noi ci troveremmo veramente a bloccarci nei palazzi, negli ascensori, a vedere marcire i nostri generi alimentari, ma addirittura la cosa più semplice del mondo, bere dell'acqua, sarebbe complicato, perché i serbatoi che fanno scendere a cascata l'acqua nelle nostre case attraverso le tubazioni vengono alimentati da delle pompe elettriche. Vi potete immaginare il disastro, per non parlare poi di ospedali e altre cose molto più importanti. La cosa che però bisogna sottolineare, che non bisogna dar retta a questo catastrofismo, cioè nel momento in cui si parla di questo tema, e io, come dire, ogni anno parlo di più di 100 temi e poi alla fine no, ti rendi conto che alcuni hanno maggior interesse rispetto ad altri, ebbene, intanto si parla molto di questa cosa perché c'è una data precisa, come diceva giustamente Crepè precedentemente, anche quando si è parlato dell'anno 1000 si era parlato molto, perché era una data precisa. Quando uno dice in questo giorno, a quest'ora succede questa cosa, tutti addrizzano le orecchie, mentre se uno dice prima o poi finirà il mondo, dice va bene, ciao, grazie, arrivederci, allora tutti tendono le orecchie. Ma soprattutto il fatto che non si possa prevedere il futuro, la scienza ce lo dimostra tutti i giorni, quindi provare a dire scientificamente che questo non è vero è banale, anzi è inutile, perché è naturale che non si possa prevedere il futuro, altrimenti avremmo tutti vinto il Super Enalotto o avremmo previsto tutto quello che sarebbe successo anche solo il giorno dopo e saremmo dei campioni del mondo di organizzazione. Mentre se vogliamo proprio dar retta anche a questa leggenda, a queste storie antiche, nessuna parla di una fine catastrofica del mondo, tutte parlano di un rinnovamento, c'è chi lo affida alla religione, c'è chi lo affida alla natura, c'è chi lo affida alle stelle, eccetera, ma tutti parlano di una fine di un periodo negativo e di un inizio di un periodo positivo. Quindi se volessimo anche in un momento di estasi mistica dar retta alle leggende al 100%, ci troveremmo di fronte a una situazione dove non c'è nulla di negativo. Questo è importante dirlo, perché talvolta, e parlavamo prima della rete, la rete come dire, permette a molte persone che non si firmano, che lo fanno dietro pseudonimo, di dire qualunque castroneria. Allora invece conoscere, e allora magari si banalizzano anche le storie, le leggende di antiche civiltà che meritano attenzione quantomeno da un punto di vista culturale. Allora, conoscendo bene le cose e parlandone, come stai facendo te adesso, Roberta, insieme ai bravissimi ospiti che in questo momento ci stiamo ascoltando, è proprio quello di informare, per fare in modo che non è detto che noi dobbiamo tranquillizzare, ma a dire le cose come stanno automaticamente tranquillizza. Comunque mi sembra che la parola chiave sia venuta fuori è rinnovamento, rinascita. Ma Stefano Bagnasco del CICAP, quello che diceva Adriano Forgione, no? Diceva possibilista sul fatto che ci possa essere un grosso cambiamento, perché comunque cominciamo ad assistere a un aumento dell'attività sismica, ci potrebbe essere queste esplosioni solari. Voi del CICAP avete fatto degli approfondimenti su questi fenomeni? Ma su diversi di questi fenomeni. Adesso il problema di tutte queste cose è proprio quello che diceva Roberto Giacobbo un attimo fa. Cioè, scientificamente non si può prevedere il futuro. O meglio, si può in un certo senso prevedere il futuro, ma non si può prevedere quando succederà una certa cosa. È lo stesso problema che hanno quelli che propongono tutte queste teorie alternative sulla previsione dei terremoti, per fare un esempio. Ci sarà un grosso terremoto che farà dei danni catastrofici da qualche parte in Italia nel futuro? Sì, possiamo dire di sicuro sì, perché l'Italia in un certo senso è zona sismica e prima o poi un grosso terremoto ci sarà. Però potrebbe anche non succedere, scusa Stefano. Sicuramente non possiamo dire quando. E lo stesso discorso è per molte di queste cose che si dicono sul 2012. Si invertirà il campo magnetico terrestre? Beh, plausibilmente sì, è già successo molte volte nel passato remoto, potrebbe succedere di nuovo, ma non sappiamo quando. Ci sarà una grossa tempesta solare che potrebbe causare danni anche ingenti alle apparecchiature elettriche e elettroniche sulla Terra? Plausibilmente sì. Tutte le volte che ci si avvicina a un massimo di attività solare, come diceva Adriano Forgione, la NASA emette degli annunci. Sì, è naturale, la NASA ha satelliti e anche uomini in orbita che in caso di una tempesta solare di una certa entità, che sulla Terra neanche arriverebbe, devono mettersi al riparo perché non sono protetti dal campo magnetico. Quindi ci si aspettano questi eventi, il problema è che non si sa quando possano arrivare. Tutte notizie allora, confortanti. Allora, commassare tutte queste date in una soltanto, che è quella del 21 dicembre 2012, non ha assolutamente alcun significato. Elisabetta Fernandez, quindi si parlava intanto ci ha riportato, diciamo, più su basi scientifiche Stefano Bagnasco, parlando della possibilità che tutte queste cose effettivamente, siccome la Terra è fatta in un certo modo, ci sono certe fragilità, possa avvenire. Tu parlavi invece della possibile spartiacque del momento di rinnovamento e di paura, soprattutto come la possibilità di riflettere su una tipologia di vita un po' più sostenibile, no? Elisabetta. Infatti la paura proprio come movente del rinnovamento, il motore che porterà questo rinnovamento, perché quando si ha paura, come dicevo prima, la paura è una delle emozioni di base e è un di forte aiuto per andare avanti, per migliorare. E io infatti mi associo con quanto è stato detto in precedenza in merito a tutte queste notizie che circolano, no? Quelle che ho definito le paranoie apocalittiche. E a fronte di discorsi su base scientifica, quelli portati avanti nel corso della tua trasmissione, purtroppo su internet e non solo, mi rendo conto che ci sono delle false teorie che io definirei scorribande surreali di neuroni disorientati, che secondo me non sono sicuramente produttive, anche se generano paura. Quindi dobbiamo anche chiarire un attimo fino a che punto la paura genera miglioramento. Infatti, a volte può far fare delle sciocchezze, direi. A volte, proprio se è mossa da situazioni così destabilizzanti, così assurde e paranoiche, sicuramente può anche produrre effetti negativi. Per quanto riguarda il discorso che avevo iniziato prima su questo recupero di un comportamento più idoneo al nuovo strutturarsi di un sistema, sia sociale che ecologico. Ribadisco l'importanza di ridefinire un paradigma scientifico e di tener conto di quanto sia importante il discorso ambientalista, il recupero della coscienza ambientale, che chiaramente con un po' di paura, credo, possa prendere piede. Il piede ce lo fermiamo per un attimo qui, perché abbiamo un'altra pausa. Poi ritorniamo insieme a Elisabetta Fernandez, Gianna Schelotto, Adriano Forgione, Roberto Giacobbo, Stefano Bagnasco, Gianfranco De Turris, sempre Roberta Giordano con voi. E poi vorrei leggere anche appunto dalla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni che cosa le ascoltatrici e gli ascoltatori salverebbero nel caso andassimo tutti giù dal burrone della storia della produzione umana. Non ci sono più le mezze stagioni. Che il vento dell'ovest mi prendeva leggero per mano, mi posava alla fine del mondo fra isole e terre lontane. Gianfranco De Turris, a proposito dell'antologia che hai curato di 24 racconti, oppure comunque di tutta la tua esperienza nel mondo della fantascienza, qual è la fine del mondo più originale che hai trovato, così come dovrebbe avvenire, insomma? Non è una cosa molto semplice da dire. Per fare riferimento a questo libro che si chiama Apocalissi 2012 ed edito da Bietti, vi devo dire che è un catalogo di fini singolari. C'è la fine prevista dal professor Longo, che dimostra come nel suo racconto come il nostro mondo alla fine si spenga, perché noi siamo nient'altro che un programma di un computer, dico per dirne una. Pier Francesco Prosperi, che è uno scrittore italiano di fantascienza di lunghissima attività, ha impensato che la fine del mondo finisca perché l'esperimento Terra, voluto da delle strane entità, è fallito. E allora, come una specie di sciacquone, il diluvio che sommerge la Terra, di cui si salva un unico personaggio a bordo di una vasca da bagno, cosa molto specie di Noè, è molto borghesiana, molto buseriana, alla fine viene risucchiato come fosse uno sciacquone che si porta via tutta una terra completamente inutile. Però, come è stato detto prima, Apocalissi, dal greco Apocalipsis, Apocalisse di Giovanni, è la rivelazione di Giovanni, lo svelamento di Giovanni, e quindi può essere interpretato anche in modo positivo. Il racconto del professor Bizzarri, che è un biochimico dell'Università di Roma, diciamo, descrive un mondo che finisce a causa di un virus che contamina tutti i computer e quindi non solo l'elettricità, ma tutto questo, il nostro mondo, diciamo così, collassa, però da questa fine nasce il germe di una nuova società più umana, più ecologicamente sostenibile. Come diceva Elisabetta Fernandez, insomma. Esattamente. Faccio notare una cosa, il 21 dicembre non è tanto vicino a Natale quanto è esattamente il solstizio d'inverno, cioè per noi occidentali naturalmente, per il calendario gregoriano e per quello precedente, cioè il giorno in cui le tenebre prevalgono sulla luce. È il giorno più breve, insomma, dovrebbe essere. Esatto. E tra l'altro torna più prepotentemente il freddo, poi si sa, non ci sono più le mezze stagioni, non lo posso dire con cognizione di causa, quindi non si sa bene poi il freddo vero quando arriva. Gianna Schelotto, potrebbe essere che anche tutto questo proliferare sul web, nei film, nei libri, questa voglia di fine del mondo, non sia, oltre alla paura, anche la noia? Banalmente. Sì, forse persino una voglia di rinnovamento, perché è appunto l'idea che qualcosa finisca tradisce in fondo il desiderio che qualcosa ricominci, e quindi la noia di quello che si ha, oppure l'angoscia per quello che ci opprime, e anche la speranza che una fine del mondo implichi la fine di quel mondo per aprirne uno nuovo. C'è una bellissima un racconto intitolato Non vi aspettate troppo dalla fine del mondo, perché evidentemente intorno a questa fine del mondo, così come la pensiamo noi, cioè in termini non direttamente apocalittici, apre spiragli di nuove speranze e di rinnovamento soprattutto. Adriano Forgione, questa trasformazione energetica di cui accennavi, cosa potrebbe concretizzarsi proprio in poche parole? Io sono dell'idea che noi già stiamo vivendo, ma non da adesso, ma già da qualche decade, un rinnovamento anche a livello di coscienza. Quindi quello che mi aspetto soprattutto è una civiltà più equilibrata. Ripeto, il fatto che oggi tutta la civiltà sia in crisi, cioè i pilastri su cui si basi la nostra società, cioè il denaro, la finanza, e quant'altro siano profondamente in crisi, anche il sistema produttivo anticipa probabilmente una trasformazione che deve assolutamente avvenire. È un messaggio che ci dice che le cose come stanno andando adesso non possono continuare. Ovviamente il passaggio non è immediato, è un passaggio graduale, ci vuole una coscienza che chiaramente si manifesti nella gente, ma soprattutto in chi ci governa, quindi in chi gestisce da un punto di vista proprio finanziario il sistema produttivo. Quindi io mi aspetto principalmente una graduale trasformazione che porterà sicuramente a un miglioramento della qualità della vita di tutti, e qui chiaramente parlo non soltanto della vita umana, ma della vita di ogni essere di questa. Quindi vita. In positivo la vedi tu, Adriano Fuggioli? Assolutamente sì. Meno male. Roberto Giacobbo, tu, dicevamo, per complicare le cose non solo hai scritto 2012 la fine del mondo, ma anche questo Da dove veniamo, immaginando, ipotizzando che non siamo stati i primi ad abitare la Terra. Adesso te lo chiedo brevemente perché poi voglio chiedere a tutti voi che cosa salvereste della storia umana. Perché ti chiedi pure, perché ci potrebbe essere stata un'altra specie, altri abitanti sulla Terra? Ma intanto perché ci sono favolosi e bellissimi indizi ancora non affrontati da chi studia questa antica storia. E poi perché ricordiamoci che noi siamo sempre il frutto della nostra storia, nel nostro piccolo, con la piccola nostra storia di una vita, o con la grande storia di un popolo, di una civiltà o addirittura dell'intera umanità. Quindi sapere meglio cosa ci ha preceduto, ipotizzarlo, intanto è un bellissimo viaggio attraverso qualcosa di ancora sconosciuto. E poi ci fa capire come sono finiti gli altri. Migliorare il nostro presente, sono sicuro. E allora leggo brevemente sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Giuliano scrive: salverei il Narciso di Caravaggio. Stefano: Bob Dylan. Cinzia: sceglierei un'enciclopedia che racchiude tutta la storia umana, la scienza, l'arte e tutte le scoperte archeologiche, insomma, da consegnare a chi dovesse venire ancora dopo il genere umano. Indro cita Melancolia di Lars von Trier, il film. Fabio: se andiamo avanti così con questi governanti è già tanto se ci avanza un paio di mutande da lasciare come testimonianza, anche un paio di mutande potrebbero essere emblematiche. Largen dice: Delitto e castigo di Dostoevskij, e poi le penne gel, la carta, la radio, la musica. Gioacchino dice: terrei delle riviste porno qualora nel frattempo ci si dimentichi come si faccia l'amore, anche se non sono molto sicura che sia proprio quello l'indicazione più opportuna. Massimo, per ricordarci come si fa l'amore, poi ognuno sul punto di vista. Massimo: il film 2001, Odissea nello spazio. Per Rosanna la vedo un po' incerta, dice: mi verrebbe da pensare a una sinfonia di Beethoven, la nona forse, l'inno alla gioia, la tuta di un astronauta, entrambi a testimonianza della grandezza della mente umana. Mimmo dice: concordo su Beethoven, ma andrai sulla Sesta, la pastorale rimane insuperabile. Andrea: la Gioconda di Leonardo, col suo sorriso ambiguo e un fascino senza tempo. Rosi: salverei tutte le persone buone e oneste per ricostruire un giorno il nostro bel paese, quindi salverei l'Italia tutta intera. Enrica: sarebbe talmente tante le cose da salvare, intendo monumenti, musei, chiese, tutte le opere artistiche, che quasi quasi scelgo Radio 24. Rufiana, Enrica, ma ti ringrazio. Giulio: la cioccolata. Ora voglio chiedere molto velocemente a Stefano Bagnasco che cosa sceglieresti di salvare. Ma visto che qui mi tocca fare la parte della scienza, direi facciamo una scoperta scientifica, via. Il bosone di Higgs, sa, giusto perché l'abbiamo appena scoperto, sarebbe un peccato buttarlo via subito. E viva il bosone o particella di Dio. Poi Paolo Crepè, abbiamo detto, glielo chiederemo poi quando uscirà dal tunnel del treno. Gianfranco De Turris: visto che si parlava di libri, salverei quelli che hanno fondato la tradizione occidentale, Iliade, Odissea, Eneide. Iliade, Odissea, Eneide, aspetta, impegnativo questo. E invece Elisabetta Fernandez? Io che amo i libri e per solidarietà femminile salverei Il cantico di una vita di Rita Levi Montalcini, per un semplice motivo, perché in questo testo lei sostiene che impegno, fiducia in noi stessi e coraggio sono le doti dell'Homo sapiens. E beh, insomma, speriamo di conservarle davvero almeno quelle. Roberto Giacobbo, tu che cosa salveresti se proprio dovessimo arrivare a questo 21 dicembre apocalittico? Intanto premesso che mi auguro proprio che non ci sia necessità, ma la cosa che mi piacerebbe salvare è due bambini per ricominciare tutto da capo. Una specie di Adamo ed Eva, ma diciamo una versione più laica, ecco, più divertente possibilmente. Adriano Furgione: salverei sicuramente la Bibbia e tutti i libri sacri di ogni tradizione, perché senza tradizione non c'è identità e senza identità non sapremmo né come ricominciare né chi siamo stati. E Gianna Schelotto, tu che cosa lasceresti? Ah, io l'Odissea, soprattutto perché Ulisse è proprio il simbolo di non fermarsi mai di fronte alla fine dei mondi. L'Odissea, come una specie di incitamento ad andare avanti senza fine. Ad andare oltre. Roberto Giacobbo, se tu dovessi invece, a proposito delle cose che vogliamo conservare, fare un auspicio, che cosa potrebbe rappresentare questo 21 dicembre 2012? Elisabetta Fernandez parlava di rinnovamento, Andrea Forgione anche, insomma, era piuttosto ottimista. Che cosa... Ma io, guarda, io concordo con molte delle cose dette, e anzi praticamente tutte, e vorrei che questo momento di indecisione, perché neanche voglio dire parole più intense, questo momento di indecisione possa farci pensare che viviamo tutti sulla stessa pallina che galleggia nello spazio, e dovremmo essere un po' più umili, sentirci meno onnipotenti e cercare di convivere meglio, perché siamo il frutto di una coincidenza stellare rarissima, non posso dire unica, ma che dovremmo godere di questa fortuna e gestire meglio quello che abbiamo. Gianna Schelotto, da un punto di vista psicologico, tu che sei psicoterapeuta, per tranquillizzare, per portare magari una dimensione un po' più razionale, chi dovesse ogni tanto, non solo il 21 dicembre 2012, ma diciamo che ci sono varie date, ogni tanto si parlava anche del 5 giugno 2012, c'era un'archeologa che lo diceva, poi è stata insomma platealmente smentita. Che diresti, Gianna? I limiti sono fatti per essere superati, e quindi dal punto di vista psicologico credo che l'impegno di ciascuno di noi debba essere sempre quello di superare i limiti, siano essi cronologici, psicologici, emotivi. E secondo te, Elisabetta Fernandez? Il futuro è il frutto del presente, quindi riappropriamoci del nostro mondo interno, recuperiamo quell'io che troppo spesso purtroppo abbiamo sacrificato per rincorrere qualcosa che sicuramente ci allontanava da quello che veramente aveva valore. Insomma, con questi auspici, con le cose che salveremo, noi speriamo di ritrovarci naturalmente qui, soprattutto conserviamo anche, non ci sono più le mezze stagioni, fino a quando è possibile. Grazie con questo Adriano Forgione, a Gianna Schelotto, Elisabetta Fernandez, a Gianfranco De Turris, a Paolo Crepè, a Stefano Bagnasco e a Roberto Giacobbo. E comunque vada a finire, qualsiasi cosa succeda, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.